quelli che non han più nulla in cui credere. Sogni per tutti gli amici nel mondo che stanno con me. Spero che sia così, spero che l'aria sia parte dell'anima. Spero negli occhi tuoi un po' di vita che cambi la tua tristezza. Non cadere, torna a volare, non è mai sola, sai, c'è chi ti ama per tutto quello che sei già dentro me. Ma che dentro te tu già troverai. Non darti più, ci dirà un po' di più, esci dal mondo tu. In questa vita sai, le mie cose erano il sogno che tu hai. Non un piccolo amore, ma non morire più.